tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, anche questo mercoledì insieme, e ci ricatapultiamo a Eufonica 2025. Anche quest'anno in fiera a Bologna è stata organizzata la terza edizione di Eufonica, quest'anno in collaborazione con altri eventi come il Guitar Show e il MEI. Quindi in crescita sempre di più questa manifestazione che già da 3 anni a Bologna coinvolge tutti i musicisti a 360 gradi. Perché va dagli insegnanti e quindi educatori, formatori, tutto ciò che si occupa di musica nella didattica, ma anche da quest'anno nella liuteria e quindi nell'artigianato, nell'editoria musicale, e poi si parla ovviamente di concerti, spettacoli e tutto ciò che è nel campo musicale. Quest'anno abbiamo avuto tantissimi ospiti a Eufonica, veramente è stato un susseguirsi di personaggi e anche di bambini, scuole, quindi al mattino c'erano ore e ore dedicate a loro e alla loro musica, è stato veramente un momento molto bello, per poi arrivare durante le serate ad avere anche insomma degli ospiti più corposi. La settimana scorsa abbiamo ascoltato l'intervista con Frida Bollani e Mark Glentworth, e questa settimana andiamo ad ascoltare alcuni dei laboratori, alcuni degli ospiti e alcune delle persone che fin dal primo anno hanno collaborato con Eufonica per renderla sempre un pochettino più grande, e quindi l'obiettivo poi è la crescita comune di questo progetto per dare visibilità ovviamente a tutto ciò che è la musica in Italia. Sempre la settimana scorsa abbiamo ascoltato Barbara Laurini, che è la mente creativa di Eufonica, veramente molto duttile e coinvolgente, perché è stata in grado di mettere assieme diverse realtà e artisti di tutti i generi e stili musicali. Quindi veramente Barbara, grazie, ti ringraziamo in particolar modo per questa idea che hai avuto. E nel concreto ci sono appunto dei personaggi e delle microimprese, delle associazioni che insieme a Eufonica sono cresciuti e hanno messo del loro. Quindi oggi andiamo ad ascoltare come prima intervista Mirko Besutti, che ci racconta un po' l'evoluzione del suo percorso all'interno di Eufonica e che cosa è cambiato e cresciuto in questi ultimi anni dal panorama musicale didattico in Italia. Eccoci, siamo di nuovo a Eufonica 2025, siamo con Mirko Besutti, che oltre che un amico, un collaboratore, è presente in Eufonica per veramente tanti motivi importanti. Ciao Mirko. Buongiorno a tutti, ciao. Sì, sono qui come presidente italiano dell'Associazione delle Scuole di Musica, perché dove c'è musica credo che l'associazione debba essere presente. Credo che questa formula di quest'anno col Guitar Show sia una formula azzeccata. Credo che vada esplorato anche, come dire, un modo per avvicinare ancora di più, sempre però penso alle scuole di musica, agli allievi di chitarra, degli archi, per essere anche, come dire, in tema con questa Eufonica, sull'evoluzione di Eufonica. Certo, assolutamente, anche perché è un'evoluzione che dal primo al terzo anno ha visto veramente molti cambiamenti fondamentali da questo punto di vista. Mi stavi parlando di un progetto di digitalizzazione delle scuole, nelle scuole, quindi molto importante quello che state facendo. Ce lo racconti un attimo? Questo progetto che abbiamo messo insieme con Blue Cloud è un progetto della digitalizzazione, ma dal punto di vista amministrativo. Sembra banale, ma credo che le scuole di musica devono fare un'evoluzione da questo punto di vista, perché questo progetto ti permette dall'iscrizione al pagamento della retta alla frequenza avere davvero una forma di gestione molto avanzata. Altra cosa è quello di fare le lezioni col digitale e tutto il resto, ma qui parliamo proprio di una crescita delle scuole di musica come enti del terzo settore, e dal 1 gennaio sappiamo che con la direttiva europea cambierà il mondo. E quindi grazie per il lavoro che state facendo, perché come hai detto inizialmente può sembrare banale, ma non lo è per niente, soprattutto per chi vuole approcciare al mondo della musica e rendere facile anche alle famiglie e ai ragazzini l'inizio di questo percorso. Allora Mirko, ci rivediamo l'anno prossimo a Eufonica? Direi di sì, cerchiamo di far progredire ancora di più Eufonica. Grazie. Grazie a te, ciao. Abbiamo ascoltato un assolo di Federico Poggipollini, il nostro chitarrista preferito perché è amico di Dedicato e lo conosciamo da un bel po', grande Fede, perché l'abbiamo ascoltato perché era ospite anche lui a Eufonica 2025 e Guitar Show. Quindi grande Fede, ci rivediamo prestissimo con una tua prossima intervista a Dedicato e andiamo avanti invece a parlare di quello che è successo appunto nelle due giornate di Eufonica il 10 e l'11 di maggio in fiera. Partiamo da Agenda Produzioni per lo spettacolo, perché un po' di autoreferenzialità ci vuole, quindi visto che Agenda siamo noi e lo staff di Dedicato fa parte di Agenda, ne parliamo, mi sembra anche giusto. Quest'anno Agenda è stata presente in Eufonica un po' diversamente dagli altri anni, perché gli altri anni ha proposto diversi dei suoi progetti, dall'editoria musicale agli strumenti a percussione e questa mostra itinerante Suoni, colori e ritmi che proponiamo in vari luoghi della città e della regione. Ma non solo, abbiamo portato laboratori, abbiamo portato un sacco di cose veramente molto interessanti e nei primi due anni c'è stata una crescita a livello musicale e anche di interazione tra i linguaggi, quindi musica e arte, musica e movimento. Abbiamo avuto delle visite guidate con i bambini delle scuole, quindi sono stati due anni molto intensi. Questo terzo anno ci siamo fondamentalmente dedicati alla radio e ai percorsi che Agenda svolge, quindi con la trasmissione Dedicato e con Radio Città Fujiko. Quindi abbiamo fatto interviste, laboratori, sketch, ci sono stati momenti divertentissimi e in collaborazione sempre con Agenda abbiamo proposto dei laboratori, per esempio un laboratorio di canto posturale tenuto da Beatrice Sarti, che abbiamo già avuto ospite in trasmissione e che è veramente molto interessante. Perché? Perché Beatrice ha proposto il canto posturale sul peso della parola, quindi un laboratorio aperto a cantanti, attori, insegnanti, terapeuti. È stato un viaggio dove tramite dei micro esercizi dal metodo di canto posturale appunto di Beatrice si è dato un peso particolare alle parole, un lavoro sullo sblocco del corpo, sul respiro, insomma è stato un percorso veramente molto bello e anche partecipato, devo dire. Quindi grazie Beatrice per essere stata con noi a Eufonica. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Poi abbiamo intervistato Pierfrancesco Pacoda, che ora andiamo ad ascoltare perché è un personaggio veramente molto interessante a livello nazionale, con il quale noi abbiamo un rapporto amichevole da tanto tempo e ci tengo a farvi ascoltare la sua voce. Siamo a Eufonica 2025, sono in questo momento con Pierfrancesco Pacoda che è con noi e ci racconta un po' queste evoluzioni che lui ha seguito Eufonica dal primo anno di attività, quindi insomma è sempre stato con noi. E quest'anno ci sono dei grandi sviluppi e cambiamenti, quindi chiediamo anche a lui, dal suo punto di vista, come si è evoluta la situazione di Eufonica 2025. Ciao, intanto grazie per lo spazio che mi concedete. Sì, io ho avuto la fortuna e l'onore di occuparmi di lavorare per Eufonica sia dalla prima edizione, quella che c'è stata a Palazzo Renzo ormai 2 anni fa, e poi l'anno scorso in fiera e quest'anno nuovamente in fiera. Ma guarda, credo che dal mio punto di vista Eufonica sempre più stia finalmente delineando quella che è la sua identità, e cioè quella di essere una fiera il cui obiettivo è raccontare che vuol dire fare musica in Italia, e da due punti di vista. Uno, dal punto di vista del professionista, che qui trova obiettivamente delle occasioni di crescita, di formazione per migliorare le sue capacità professionali, sia come artista, cioè sia come musicista, come artista, ma anche in relazione al mercato, a confrontarsi col mercato. E dall'altro, siccome la musica è soprattutto incontro, gioia, dello piacere dello stare insieme, condivisione, credo che anche il tenere presente l'aspetto sociale della musica, quindi la musica come occasione di incontro e non necessariamente come passione, sia un'altra delle linee e guida nelle quali Eufonica si sta sviluppando. Come lo fa? Beh, lo fa portando qui delle eccellenze sempre di più. Io sin dall'inizio ero convinto che quello che la fiera dovesse fare era portare delle persone capaci di raccontare delle storie di successo, ripeto, sia in ambito sociale che in ambito professionale, e in qualche maniera quindi di condividere il proprio bagaglio di esperienze col maggior numero di persone possibile, ed è questo quello che credo stia succedendo. In effetti c'è stata appunto una crescita molto esponenziale, diciamo, certo, dal primo anno. La bellissima edizione di Palazzo Renzo è stato un inizio e un primo, certo, step, dove poi noi anche ci siamo conosciuti, appunto. Certo, certo. E tu porti sempre dei saperi e delle conoscenze interessanti a Eufonica, perché dibattiti, talk, discussioni con personaggi veramente importanti, ma al di là dell'essere conosciuti è anche l'interesse di quello che dicono. Quest'anno hai da raccontarci qualcosa di specifico di quello che è successo attraverso i tuoi occhi a Eufonica? Ma guarda, vi citerò gli incontri di oggi, ma non perché siano quelli più recenti, ma perché mi hanno molto colpito, in particolare il primo che abbiamo fatto, entrambi. Ma anche quest'ultimo, il primo che abbiamo fatto in mattinata era questo incontro dedicato a un tema molto importante, che è quello dei finanziamenti pubblici alla musica. Cioè è inevitabile, ieri abbiamo fatto un incontro sull'alta formazione in cui si diceva che oggi quasi il mercato non esiste. Non è così, però il mercato ha bisogno di un sostegno pubblico, di un sostegno istituzionale. È dovere dell'istituzione, dell'ente pubblico, delle grandi fondazioni sostenere l'arte, sostenere la musica, far sì che la musica sia davvero a disposizione di tutti, perché non è, ahimè, la musica non è un business, e se non ha proprio grandissimi livelli di musica di consumo. E quindi oggi è stato interessante perché c'era con noi, seppur in remoto, non è potuto essere presente, Antonio Parente, che è il direttore generale del Ministero della Cultura ed è la persona che nello specifico si occupa di quella attività del Ministero della Cultura che è il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, che sembra una roba, io quando mi ci sono avvicinato pensavo che fosse una cosa mitologica, in realtà non lo è uno strumento molto concreto a disposizione di chi fa musica, dei festival e di chi si occupa di formazione musicale. Quindi aver avuto lui che ci ha anche dato delle indicazioni concrete sulla bandistica FUS è stato interessante, come gli altri contributi, il contributo della SIA e il contributo dei nuovi MAI, anche concretamente, cioè raccontandoci come andando sui portali SIA e nuovi MAI ci sia la possibilità di accedere a una serie di bandi nuovi interessanti che magari potevano interessare. Io non sapevo ad esempio che Nuovi Mai avesse un bando di sostegno alle musiciste madri e ai musicisti padri, che sono, io non ne sapevo nulla, un contributo economico interessante che può magari aiutare e sostenere chi fa musica. E lo stesso il progetto che abbiamo presentato dopo, il Jazz va a scuola, Paolo Freso e Katia Gori, progetto che io conoscevo poco, quindi anche per me poi queste sono occasioni di scoperta. Progetto bellissimo, anche questo si regge attraverso i bandi, portare il jazz all'interno delle scuole, dalle scuole d'infanzia alle scuole primarie, che è un progetto di grande successo. Abbiamo visto un video incredibile con questi bambini che facevano parte di una formazione di musica d'insieme, facevano jazz a un livello straordinario e soprattutto che hanno scoperto come il jazz sia una musica che stimola l'ascolto, non l'ascolto musicale, ma proprio la necessità che tutti abbiamo di ascoltarci e di ascoltare. Bene, ti ringrazio. Abbiamo un prossimo appuntamento, Eufonica 2026 a questo punto, o ci rivedremo prima? Cosa mi racconti? Abbiamo un appuntamento, spero Eufonica 2026, ma mi piace citare una cosa che sto facendo in collaborazione con la Fondazione Sant'Orsola, a cui tengo molto, perché la Fondazione Sant'Orsola ha avuto in gestione dalla Curia un posto meraviglioso che è il Monastero della Visitazione, un ex monastero di clausura in via Mazzini, quale la Fondazione farà un centro di accoglienza molto importante per le famiglie di persone con malattie importanti che non possono permettersi economicamente di essere vicini ai propri cari. E per farlo conoscere alla città facciamo 4 appuntamenti, conversazione sul tema del rapporto tra la musica e la spiritualità. Iniziamo con Dente, poi ci sarà Cristiano Godano, Cristina Donà e chiuderemo con Vasco Brondi. Ed è sul sito Fondazione Sant'Orsola, trovate tutte le informazioni. Grazie Pier Francesco, a presto allora, ciao. A presto, grazie a te, a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. It's pretty. Abbiamo ascoltato Gloria Gaynor, fantastica come sempre, e prima dell'intervista con Pierfrancesco Pacoda abbiamo ascoltato Fun con We Are Young. Ora andiamo ad affrontare l'ultimo dei laboratori workshop che si sono tenuti a Eufonica, l'ultimo di oggi, perché poi parleremo in altre puntate di quello che è successo a Eufonica, dedicheremo il giusto tempo anche a una classe di chitarristi del liceo Lucio Dalla di Bologna che sono veramente, a parte simpaticissimi, ma veramente molto bravi, con il loro professore che li segue passo passo e gli fa fare delle esperienze meravigliose. Andremo a vedere tanto altro di Eufonica, ma intanto in conclusione di questa puntata vi lasciamo con la notizia di questo workshop sulla body percussion, che è una tecnica veramente molto bella, tenuto da Antenor Ferreira, organizzato dall'associazione culturale MASC in collaborazione con SIEM, Società Italiana Educazione Musicale, l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, la classe di percussioni del Conservatorio G.B. Martini di Bologna e Agenda Produzione per lo spettacolo. È stato organizzato questo workshop per il 15° Mask Fest e niente, Antenor Ferreira ha fatto suonare tutti, dai piccoli ai grandi, era diviso in due sezioni, la prima per i piccoli e anche per i genitori, ma anche per adulti che non hanno mai approcciato alla musica. La seconda parte invece era dedicata a percussionisti e a musicisti già un po' più scafati, diciamo. Insomma, è stata una meraviglia, suoni, ritmi veramente miscelati e poi tante presenze veramente anche di bambini che si sono messi in gioco, quindi è stato veramente molto molto interessante. E ora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, quindi ci salutiamo, ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13 su Radio Città Fujiko, per un'altra puntata di Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per quello.